Allora, se posso prendere la parola brevemente nel mio ruolo di coordinatore, ho anzitutto direi da rinnovare l'apprezzamento per quelli che hanno voluto questo convegno senza che io glielo suggerissi. Io mi sono semplicemente direi messo a disposizione doverosamente a quelli che lo richiedono, cioè al Comune di Trento sostanzialmente e all'assessore Grandi che ci ha impegnati doverosamente e che anche appunto sotto tutti i punti di vista organizzativi, compresa la segreteria e chi la dirige, le signorine, quelli che sono stati qui al tavolo e il signor Antoniacomi, diretto tutta questa operazione, eccetera, vero, si sono dimostrati veramente sensibili e attenti. Direi non hanno esagerato in aspetti trionfalistici, non era questo neanche da noi richiesto, ma invece dal lato della funzionalità veramente si sono messi largamente a disposizione. Ecco, ringrazio, ma anche perché non lo ho fatto finora esplicitamente, il comitato che si può leggere nell'intestazione del programma e che ha dato insomma, il supporto accademico necessario, vero, per la serietà di questa cosa e che ritengo ancora. Ecco, il professor Prodi, tra l'altro, il professor Corsini e così via, e che ritengo ancora sommamente impegnato nel aiutarci per la realizzazione degli atti, no? In particolare al Comitato sentirei demandato il compito di procurare la edizione, la stampa e insomma l'edizione ben riuscita degli atti, sui quali oggi ancora non abbiamo idee rifinite, dovremmo studiarle insieme. Non ho dubbio che ci sarà chi pubblica volentieri gli atti di questo convegno, però le modalità sono ancora tutte da studiare. Vorrei solo, cioè, con questo però vorrei lasciare a tutti i relatori l'impegno a rifinire tra non molto, nei termini che meglio credono, anche più sviluppato, più corredato di note, eccetera, e anche di immagini, come meglio credono, il loro lavoro e il lavoro delle due comunicazioni che sono state qui presentate, e metterei, se sono d'accordo, idealmente il termine del 31 dicembre, perché essi, insomma, i testi mi vengano fatti pervenire. 31 dicembre di quest'anno non è il massimo, ma ecco, non vogliamo neanche dilazionare sine die la cosa perché insomma, mi pare un termine possibile, salvo obiezioni, ecco, non vogliamo prendere per il collo nessuno, anzi è proprio l'occasione per rinnovare il ringraziamento a tutti i relatori e tra questi veramente al professor Sternad, alla signora che ecco, nel frattempo abbiamo anche conosciuto come la gentile consorte, che mi hanno tra l'altro ispirato per primo nella impostazione stessa, nell'articolazione di questo programma, sono stati i consiglieri principali della impostazione dell'insieme. Impostazione che, ecco, in fase conclusiva si rivela ancora valida, a me pare, no? Perché l'articolazione dei temi scanditi per le giornate, credo che anche a cose compiute ci convinca abbastanza e si dimostri utile anche per l'articolazione stessa degli atti. L'uomo e l'ambiente, quante cose abbiamo sentito, quante particolari estremamente significativi sulla fisionomia spirituale di quest'uomo così complessa. Dal primo all'ultimo giorno ci sono stati forniti, compresa la pignoleria amministrativa di quel piccolo peculio particolare che abbiamo sentito ieri, compresa comprese le sue devozioni, che malgrado tutto, ecco, gli storici non sono molto teneri in questo senso, ma certamente quest'uomo ha avuto, non sono arrivato a parlare della devozione mariana codificata in elementi iconografici di primissimo ordine, che anche egli ha legato all'ambiente. Poi la giornata Simone, che mi pare riuscita, e era estremamente importante che riuscisse anche come momento di stato d'animo, la presenza di partecipanti dal mondo ebraico e il clima di shalom, di intesa e di pace, che in questa occasione di riflessione scientifica, e grazie alla riflessione scientifica, è emersa spontaneamente durante i lavori densi di quella giornata, ripagano indubbiamente di tante cose. Il governo civile del Principato, quante cose abbiamo imparato ieri in quello sforzo convergente di capire meglio cos'era il Principato di Trento, che tante volte si ritiene di conoscere come la propria tasca, e che invece si è rivelato un insieme molto composito, fatto di equilibri molto singolari, no? E che insomma chiede di essere capito con molta sensibilità. Credo che è stato un contributo non indifferente all'intero modo come si può abordare la storia trentina. E infine questo sforzo di cogliere il Hindelbach anche come pastore, perché non da ultimo, a me pare, egli si è comprovato anche come pastore della propria diocesi, in un tempo in cui i principi vescovi facevano tante cose tranne quel lavoro. Qui abbiamo veramente un caso di una dedizione pastorale che non è la più usuale e che certamente ha contribuito a lasciare un'impronta. Ecco, tutto sommato ho l'impressione che non siamo andati cercando di prendere farfalle sotto l'arco di Tito, né di fare bolle di sapone nella via del Simonino o del Beato Simonino, ma abbiamo avuto grazia di veramente abordare tutto questo tema non solo ai fini della storia locale, ma in dimensione universale, accorgendoci quanto occorre una convergenza ampia per capire le cose più piccole e come le cose più grandi ricevono a loro volta un contributo decisivo, un calibro esatto dalla conoscenza delle cose piccole. Di più non vorrei diffondermi, perché abbiamo già abusato della loro pazienza. Auguro a tutti un buon ritorno a casa. Siamo stati favoriti anche dal buon tempo, spero che ci accompagni fino a casa.